giorno sai, per noi verrà la libertà di amarci qui senza limiti. E fiorirai sogno a noi, negato. Un giorno sai, per noi verrà.